Produzioni Sound Maniacs 191 yeah. sul beat. Aspetta il micro. Sono Pippa Mentali, amico. Blow. Elimini i tuoi problemi, ma se vuoi il tuo problema sono io, dimmi come cazzo mi levi. Dico, il problema sono io, quindi mi levo. Graffi in faccia, punti in mano, non ti basta che mi autoledo. Autoreda, dovrò usare il congiuntivo. Se mi auto elimino, mi auto ammazzo, e che è mi suicido. Sui coi si desido, naturale. Ascolto per il tedesco, non capisco nulla quale. Da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce. Più passa il tempo, più la fiducia nei miei confronti decresce. Crescerò in qualcosa nella vita? Connetto il mio mondo a quello reale, no. Connessione fallita, alla guida di un fallimento ormai sull'astrico. Al momento mi consola la fake al massimo. Ci vorrebbe erba verde come speranza, ma anche lei spera che non la bruci in sostanza. Tam tam, sono pippe mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le pensate ed è quella universale. Tam tam, sono pippe mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le pensate ed è quella universale. Come sto? Male, se lo credo. Mentre inseguo il mio desiderio, perché ho appena perso il freno. Remo in un mare di merda e non riesci a muoverti, dove l'effetto è lo stesso delle sabbie mobili. Nobili paranoie sullo sfondo cercano di tirarmi via con una corda appesa al collo. Non mollo, tentando di uscire fuori, ma vedo bianco e nero in questo mondo di colori. Muori, esprimo l'ultimo desiderio, muovi gli ultimi passi sullo stesso sentiero. Prego, e tu volta le spalle e racconto. Mi rivolgo solo nel momento del bisogno. Bisogno di sole, amore, ce l'ho un cuore. Luna illumina nuvole, l'odio sporca sta canzone. Ce l'ho un cuore. La luna illumina le nuvole, l'odio sporca sta canzone. Pip mentali. Pip mentali. Pip mentali. Pippa mentali. Tam tam, sono pippa mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le pensate ed è quella universale. Tam tam, sono pippa mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le pensate ed è quella universale. Tam tam, sono pippa mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le pensate ed è quella universale. Tam tam, sono pippa mentali, fisse mentali. C'è il divieto da prigione perché mi fissi, compare. Come sto? La risposta le trovate ed è questa che vuoi fare.